24. La storia. Quella che vi raccontiamo oggi è l'ascesa e poi la caduta di un potente affabulatore, di un accanito collezionista di incarichi pubblici. Presidente del Consiglio di Stato prussiano, comandante in capo dell'aeronautica, ministro per le foreste e la caccia della Germania nazista, presidente del Reichstag e maresciallo del Reich. Per 20 anni è stato il numero 2 di Adolf Hitler. E solo una volta è stato numero 1 al processo di Norimberga. Questa è la storia di Hermann Göring. Per noi giovani luogotenenti era un idolo, un esperto pilota di caccia, un eroe della Prima Guerra Mondiale. Lo adoravamo, ma poi le cose sono cambiate. Hermann Wilhelm Göring nasce a Rosenheim nel gennaio 1893. Trascorre l'infanzia nel castello del suo padrino ebreo Hermann von Hammerstein, amante di sua madre. E si sente un bambino trascurato. Non ama lo studio e spesso scappa da scuola. La madre dice di lui: Hermann diventerà un grande uomo o un grande criminale. Frequenta l'Accademia per i cadetti di Prussia, che trasforma il giovane ribelle in ambizioso ufficiale cadetto. Nel 1911 supera gli esami da ufficiale di primo grado con il massimo dei voti. Indossa la sua prima uniforme. 2 anni più tardi ottiene il suo primo incarico, luogotenente di un reggimento di fanteria. Allo scoppio della guerra si arruola nel reparto aereo imperiale e nel 1916, ottenuto il brevetto di pilota, combatte la sua prima battaglia aerea. Il premio per il coraggio mostrato in combattimento è il titolo di comandante di uno stormo di caccia e la medaglia al merito, la più alta onorificenza tedesca al valore militare. Nel luglio del 1918, quando oramai la guerra sta per terminare, ottiene il comando del reparto fino ad allora guidato dal mitico barone rosso Manfred von Richthofen, il più famoso pilota di caccia di tutti i tempi. Göring vivrà a lungo all'ombra di questa fama. Ben oltre la fine della Prima Guerra Mondiale, che ridurrà la Germania allo stato di impotenza senza esercito e privata di ricchi territori carboniferi e minerari della Ruhr. Ascoltiamo lo storico Greg Krumenaik. Fin dall'inizio degli anni 20 comincia a circolare la leggenda o il mito ricorrente della pessima accoglienza che fu riservata ai soldati. Per 4 anni avevano combattuto per la Germania, si erano immolati. Gli era stato promesso che sarebbero stati accolti da eroi. E adesso a nessuno importa niente di niente. Questa è la storia che Hitler racconterà di continuo e la storia di quasi tutti coloro che crederanno in Hitler. Dunque, nell'estrema confusione del dopoguerra, i reduci dell'esercito tedesco vedono il Trattato di Versailles come una disgrazia. I soldati si sentono traditi, tra questi anche Göring, perché tra le altre cose il trattato vieta alla Germania di avere un'aviazione militare. Göring si trasferisce in Svezia come pilota civile. Per mantenersi vende paracadute tedeschi. Nella tenuta di un aristocratico svedese incontra l'attraente Karin von Kanzow, di 5 anni più grande di lui, e se ne innamora. Nel 1921 Göring si convince a rientrare in Germania e l'anno successivo sposa Karin. Intanto le proteste contro il Trattato di Versailles aumentano e Göring cerca di entrare in contatto con i gruppi che condividono il suo scontento e le sue idee. Durante un raduno del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi incontra Adolf Hitler. Un intero popolo è sulla soglia di una nuova era. E noi siamo stati benedetti dal destino. Göring è colpito non solo dai contenuti del discorso, ma anche dall'uomo che lo pronuncia. Si unisce così ai nazionalsocialisti e in poco tempo trasforma le disorganizzate truppe d'assalto di Hitler, le SA, in un imponente apparato militare. Giovanni Sabatucci. Quando Göring incontra il movimento nazionalsocialista e Hitler, è un giovane reduce di guerra, un giovane ufficiale, non è l'uomo corpulento e vizioso che siamo abituati a vedere nelle immagini successive. È non solo un reduce, ma è un eroe di guerra e in particolare è un asso dell'aeronautica. ovvero dell'arma nuova, quella che si era per la prima volta messa in evidenza nel corso della Grande Guerra e che aveva creato dei miti, delle figure mitiche, e Göring era uno di questi, che in qualche modo sembravano riprendere una certa epica di tipo cavalleresco che la guerra di massa forse aveva in parte cancellato. Bene, Göring aveva dalla sua questo alone di eroismo ed era anche un uomo ovviamente ben visto, ben inserito nelle forze armate. E in questo senso il suo ruolo anche nelle prime fasi, nei primi passi del movimento nazionalsocialista fu molto importante. Göring cerca l'appoggio di generali delusi e di altri gruppi nazionalsocialisti e nel 1923 partecipa all'organizzazione di un colpo di Stato che ha come obiettivo l'ascesa al potere di Hitler. Il golpe viene stroncato sul nascere e Hitler viene arrestato. È durante la carcerazione che Hitler scrive il Mein Kampf. Ascoltiamo lo storico Franco Cardini. Per certi versi è l'autobiografia di uno che immagina se stesso come l'eroe assoluto e la sua vita come una vita paradigmatica. Anche la sua povertà, le sue frustrazioni vengono metabolizzate. Il Mein Kampf è una sorta di autovangelo, per così dire. Per un altro, il Mein Kampf è un libro normativo. Il Mein Kampf non dà tanto conto delle idee di Hitler quanto è un grande manuale attraverso il quale Hitler spiega la sua esperienza per indicare ai suoi come si conquista con la forza, con la violenza, anche con la violenza della persuasione, che è essa stessa violenza, il potere. La polizia bavarese emette un mandato d'arresto anche a carico di Göring, che, pur gravemente ferito, riesce a fuggire in Austria per sottrarsi all'arresto. In un ospedale di Innsbruck viene sottoposto a un'operazione chirurgica. Per alleviare il dolore gli viene somministrata morfina 2 volte al giorno. È l'inizio di una dipendenza che durerà tutta la vita. Nel frattempo Hitler dal carcere chiede a Göring di partire per l'Italia e prendere contatti con Mussolini, è l'incarico giusto per lui. Esteta e perfetto oratore con velleità diplomatiche e di gran tessitore. Göring si stabilisce a Venezia e invia a Roma messaggi dai toni accattivanti, ma Mussolini decide di non incontrare l'emissario di Hitler. I nazionalsocialisti tedeschi non gli sembrano ancora affidabili. Dopo un anno senza risultati, Göring è a corto di denaro e non può permettersi la dose giornaliera di morfina da cui è oramai totalmente dipendente. Torna in Svezia dai suoceri sperando in un aiuto economico. Spesso perde il controllo e diventa violento. Alla fine viene ricoverato per 3 mesi in ospedale per malati psichici. La diagnosi dei medici è pesante. Paziente brutale, isterico, con una personalità molto debole, con istinti suicidi, depresso, egocentrico, antisemita. È il 1926, a 33 anni, la carriera del pluridecorato eroe della Prima Guerra Mondiale, con 22 aerei abbattuti, sembra giunta al termine. Mix 24. La storia. Germania 1927, sono passati solo 4 anni dal fallito Putsch di Monaco, ma la confusa situazione politica dovuta alla disoccupazione e alle proteste di piazza rimette in campo i nazisti. Anche il mandato di cattura contro Göring è decaduto e così può tornare in Germania per riprendere la sua ascesa al potere. Mio zio, già da allora, era convinto che Hitler fosse l'unico in grado di salvare la Germania dalla disastrosa situazione nella quale era sprofondata dopo la Prima Guerra Mondiale. Quindi pronunciò senza battere ciglio il suo personale giuramento di fedeltà eterna a Hitler. 30 agosto del 32 Göring diventa presidente del Reichstag. La sua carriera non sembra avere più freni. Viene nominato ministro degli interni di Prussia e capo della Gestapo. Il dittatore lo apprezza per la sua freddezza, è un calcolatore attento che riesce a non perdere la testa nei momenti difficili. raggiunge un accordo con l'ex cancelliere von Papen e convince il magnate della stampa Hugenberg ad allearsi nella lotta contro quel che rimane della Repubblica di Weimar. L'obiettivo di Göring è ormai esplicito. Als ich an die Spitze des preußischen Innenministeriums berufen wurde, wusste ich, dass ich das schwerste Amt übernehmen muss. Questo compito così impegnativo è fondamentale per la nostra posizione di potere. Farò piazza pulita e rimuoverò dagli incarichi tutti i comunisti e i cattolici che si oppongono ai nostri sforzi nazionali. Il 27 febbraio 1933 un incendio di origine dolosa manda a fuoco il Parlamento tedesco. È l'occasione per dare la caccia a tutti gli oppositori politici. Fecero delle liste e subito dopo molti arresti. Fummo interrogati tutta la notte, chiusi in una cella e senza nulla da mangiare. Ci sbattevano la testa contro il muro, lo facevano sempre. Solche Dinge gab es ständig. Da quel momento la strada per il potere totale è spianata. La violenza è giustificata dal patriottismo. Viene abolito il voto a maggioranza e i nazisti costruiscono i primi campi di concentramento per oppositori del Reich. Quando la nostra rivoluzione sconvolse la Germania, cominciammo distruggendo l'orribile sistema del passato, il parlamentarismo e il pacifismo. In realtà Göring lavora senza sosta solo per estendere il proprio potere. In pieno riarmo la Germania istituisce il Ministero dell'Aeronautica con a capo proprio Hermann Göring, l'eroe del volo della Prima Guerra Mondiale, un incarico che gli permette ancora di più di legare a sé l'industria tedesca grazie a numerose commesse, come ricostruisce lo storico Giovanni Sabbatucci. Nella storia della Germania nazista degli anni 30, Göring occupa un ruolo sicuramente di grande importanza, forse non dal punto di vista delle decisioni politiche e delle grandi strategie che Hitler condivideva, direi quasi con nessuno. Occupa un ruolo di grande importanza soprattutto nell'apparato militare ed economico. Non si trattava solo dell'aviazione, della Luftwaffe, che era così la creatura quasi personale di Göring, un po' forse come l'aeronautica italiana fu in parte una creatura personale di Italo Balbo e in forme forse ancora più accentuate. Ma anche perché essere a capo di quel ministero significava poi controllare tutta una serie di cose, significava soprattutto per Göring essere al centro di quell'intreccio che si viene a creare nella Germania nazista fra riarmo e grande industria, che è una delle chiavi della ripresa economica e industriale tedesca. Ma non basta. Göring non vuole solo il potere, ma anche il controllo. Costituisce un ufficio ricerche dell'aviazione che dietro questo ambiguo nome nasconde un segretissimo centro per le intercettazioni telefoniche. Potevamo intercettare tutte le telefonate delle ambasciate straniere. In quegli anni le linee che andavano da est a ovest passavano tutte per Berlino, quindi tecnicamente non c'era alcun problema. Ascoltavamo tutte le conversazioni degli ambasciatori. Nessuno sapeva cosa stessimo facendo. Per tutti eravamo un semplice ufficio del Ministero dell'Aeronautica del Reich. Il controllo esercitato anche su alcuni dei gerarchi nazionalsocialisti. Nel luglio del 1934, con la scusa di una possibile rivolta interna, Göring e Hitler organizzano un massacro dei vertici delle SA. E una volta fatta piazza pulita nel partito, Göring cambia obiettivo. Un cittadino tedesco o appartenente a una razza affine deve dimostrare col suo comportamento di essere pronto e desideroso di servire il popolo tedesco e il Reich. I matrimoni tra ebrei e cittadini tedeschi o razze affini sono proibiti. Il mondo non ha ancora aperto gli occhi. Molti diplomatici apprezzano la compagnia del raffinato Göring. A differenza di Hitler, Göring sogna un impero economico tedesco da estendere innanzitutto a tutta l'Europa sud-orientale, tanto che l'annessione all'Austria del 1938 è il risultato di una strategia calcolata freddamente da Göring. L'entusiasmo contenuto si accende irrefrenabile quando dal balcone del municipio il ministro della propaganda, dottor Goebbels, proclama solennemente aperto il giorno del grande Reich tedesco. Den Tag des Großdeutschen Reiches! Mix 24, la storia. Nel marzo del 1938 Hitler punta a una nuova e più pericolosa espansione, la conquista dei Sudeti. Göring la ritiene una mossa troppo rischiosa e conduce trattative segrete con gli inglesi per ridurre i rischi. Cerca la pace perché ha troppo da perdere, ma Hitler decide ugualmente la mobilitazione. A questo punto Göring, con un'abile mossa, invita l'Italia alleata dell'Asse a cercare una mediazione. Redige egli stesso l'accordo che Mussolini presenta alla conferenza di Monaco come sua proposta. Il potere di Göring sembra essere al suo apice, ma dietro le quinte appare ormai evidente che il maresciallo ha perso il suo legame diretto con Hitler. Führer ha scelto una politica di espansione armata, mentre Göring preferirebbe decisioni imposte al tavolo negoziale. Vorrebbe trattare una soluzione pacifica della crisi. Ma Hitler non è d'accordo. Joachim von Ribbentrop viene nominato ministro degli esteri. Sulla questione della guerra è sulle stesse posizioni di Hitler e cerca di controllare l'influenza di Göring. Così, mentre l'uomo più importante del Reich, dopo Hitler, è in vacanza in un centro termale a Sanremo, le truppe tedesche marciano su Praga. Göring è lacerato tra la sua fedeltà a Hitler, che vuole la guerra e solo la guerra, e il suo desiderio di godere della pace. Per Göring è chiaro che per rimanere comandante in seconda di Hitler non può che offrire fedeltà incondizionata al Führer, anche se, grazie al suo ufficio di spionaggio, sa che il prossimo obiettivo è la Polonia. Ascoltavamo tutte le conversazioni e gli riferivamo tutto. Forse sono state tratte delle conclusioni errate, perché erano ancora convinti che Gran Bretagna e Francia non sarebbero intervenute. È il 1939 e questa volta le democrazie occidentali sono pronte a intervenire. Göring implora Hitler: basta con questo gioco pericoloso. Ma Hitler risponde: è tutta la vita che gioco d'azzardo. Sono due concezioni del potere inconciliabili. Ancora Giovanni Sabatucci. Hitler è un uomo che bada sempre al suo scopo politico ed è pronto a sacrificare qualsiasi cosa ai suoi progetti. È, come lui stesso dice, un giocatore d'azzardo, pronto a rigiocarsi ogni volta l'intera posta. Göring, da questo punto di vista, ha forse un altro approccio. È un uomo soddisfatto, è un uomo appunto ricco, era anche un uomo vizioso, malato, ma questo la gente non lo sapeva. Fatto sta che è anche normale che al momento in cui il regime e il suo capo decidono di rigiocarsi tutto quello che avevano guadagnato sino allora, e non era poco in termini politici e strategici, Göring abbia qualche esitazione. La visione di Göring è travolta dai progetti espansionistici di Hitler e perde potere. Il Feldmaresciallo si ritira in campagna, dove possiede un villino di caccia, una residenza sfarzosa in cui sfoga le sue passioni costose. Ama l'eleganza, il lusso e i suoi rapporti con il mondo dell'industria gli consentono di mantenere uno standard di vita in linea con la sua posizione. Sono semplicemente un uomo del Rinascimento. Amo la grandezza. Nel frattempo la guerra, quella che Göring aveva cercato di evitare ad ogni modo, è ormai una realtà. I suoi bombardieri partono all'attacco della Polonia, anche se la rinata aviazione tedesca non è così imbattibile come viene presentata. Ascoltiamo la testimonianza del comandante pilota Walter Krupinski. Bisogna sapere che nessun generale della Luftwaffe aveva esperienza di volo. Alcuni avevano partecipato alla Prima Guerra Mondiale, ma erano stati semplici comandanti di divisione e non avevano quindi voce in capitolo. Gli ufficiali della Luftwaffe non sapevano nulla di combattimenti aerei. La loro esperienza di volo era scarsa o nulla. Eppure furono questi uomini a dirigere una delle flotte aeree più temibili del mondo. E infatti, con alcuni amici, commenta: è terribile, Hitler è impazzito. E due giorni più tardi dice: se perdiamo la guerra, possa Dio avere pietà di noi. La superiorità numerica di aerei 20 contro 1, la Luftwaffe non ha difficoltà a vincere la battaglia polacca e anche per questo Hitler gli dà un'ulteriore dimostrazione di fiducia. Se mi dovesse accadere qualcosa in battaglia, il mio primo successore sarà il camerata Göring. Göring in pubblico incita alla guerra, ma in segreto si adopera per iniziative di pace. E questa volta fa un'offerta a Roosevelt: se diventerà cancelliere, si ritirerà dalla Polonia e fermerà la persecuzione degli ebrei. Il presidente americano risponde positivamente, in cambio garantisce alla Germania il ripristino delle frontiere del 1914 e la restituzione di tutte le colonie tedesche. Ma poi Göring, invece di opporsi all'offensiva del fronte occidentale, lancia i suoi aerei all'attacco, e l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Prime discussioni tattiche appare fin troppo chiara l'incompetenza di Göring. Fa grandi promesse, ma l'aviazione non è in grado di essere determinante. Göring riporta una prima sconfitta sulla costa della Manica, dove il contingente inglese si è radunato per prendere il mare e rientrare in Inghilterra. Nonostante le forze tedesche di terra abbiano circondato gli alleati, l'aviazione non riesce a bombardarli, tanto che gli inglesi abbandonano il continente quasi indenni. Ma questo fallimento viene coperto con l'euforia della vittoria sulla Francia. Göring definisce Hitler il più grande comandante di tutti i tempi, ma al tempo stesso spera segretamente che la sua smania di guerra finalmente si plachi. Nel frattempo saccheggia letteralmente il Louvre di Parigi, assicurandosi capolavori per centinaia e centinaia di milioni di marchi, da Velázquez a Leonardo da Vinci a Cézanne. A luglio del 1940 Hitler promuove comunque Göring a maresciallo del Reich, la carica militare più alta della Germania. Iniziano i bombardamenti aerei sulla Gran Bretagna con l'obiettivo di preparare il terreno per una successiva invasione. Ma i continui ripensamenti di Hitler e la riluttanza di Göring portano a un'operazione incerta che sfianca i piloti della Luftwaffe. A ottobre l'aviazione tedesca ha già perduto 1700 aerei. Gli ufficiali non riescono a trovare un accordo sulle strategie e Göring non è capace di stabilire priorità e obiettivi. Tra i piloti cresce il malumore. Quando sono arrivato al fronte, la battaglia di Gran Bretagna era quasi finita. Ci vennero dubbi sulle capacità dei nostri comandanti, ma non pensavamo che fosse Göring a sbagliare. Pensavamo che le cose erano finite male per l'incompetenza dei nostri superiori. Tutta l'operazione era stata un susseguirsi di errori. Göring, in quanto creatore e capo della Luftwaffe, ovvero dell'aviazione tedesca, era e non poteva non essere il responsabile, non solo oggettivo, di quello che fu l'insuccesso forse decisivo strategicamente in quella fase della guerra, ovvero il fallimento della battaglia d'Inghilterra. Ci si può chiedere come mai ci rimettesse politicamente, come mai non fosse in qualche modo chiamato a rispondere di queste sue responsabilità. Beh, Hitler, bisogna dire che da questo punto di vista aveva metodi diversi da quelli di uno Stalin, per esempio, o anche di un Mussolini. Tendeva a mantenere lo staff dei suoi collaboratori e Göring sopravvive a questo insuccesso clamoroso di cui la stessa opinione pubblica lo ritiene in qualche modo responsabile. È indubbio però che da questo momento comincia il suo declino, anche politico. La guerra dunque è iniziata da solo un anno e nonostante i successi militari che sembrano dare ragione a Hitler e alla sua follia di dominio del mondo, la macchina nazista mostra le prime crepe. Mix 24, la storia. Giugno 1941. scatta l'operazione Barbarossa, l'invasione dell'Unione Sovietica. Nella spirale della dipendenza dalla morfina, Göring riesce a sopportare la realtà solo mandando giù un numero incredibile di pillole. Ma la rapida successione degli avvenimenti non gli dà tregua. Gli alleati incominciano a sorvolare lo spazio aereo tedesco. Colonia e altre città vengono ripetutamente bombardate. Noi, vittime dei bombardamenti, ritenevamo Göring uno dei maggiori responsabili di questi disastri. Aveva fatto dichiarazioni da spaccone, per poi rivelarsi un incapace, e ci aveva messo in questa situazione. Da questo momento in avanti sarà un crescendo di fallimenti. Nell'inverno del 42-43 l'avanzata di terra nazista si arena ovunque. In Nord Africa il generale Rommel è sulla difensiva. A Stalingrado la sesta armata tedesca è sotto assedio e in tutte queste situazioni l'aviazione di Göring non riesce e non può cambiare la situazione. Göring ha perso completamente il contatto con la realtà e anche sul fronte interno non ha più alcun controllo. Dopo Stalingrado non davamo più ascolto alle parole del capo della Luftwaffe e i camerati dicevano: quel grassone farebbe meglio a tacere. Avvertivamo un forte senso di impotenza. C'erano costantemente raid aerei. Ci spaventava la sirena anche quando si trattava di falsi allarmi. La gente moriva atrocemente. In quei momenti provavamo solo orrore. E il completo fallimento della Luftwaffe e costringe Hitler a intervenire in prima persona. Ai suoi occhi Göring si è comportato come un incompetente. Il 6 giugno 1944 gli alleati sbarcano in Normandia. Complice una difesa aerea tedesca in piena disfatta. Mentre i bombardieri russi arrivano sopra Berlino centrando i pochi obiettivi lasciati integri dalle bombe anglo-americane. 20 aprile 1945. I lanciarazzi sovietici, i cosiddetti organi a canne di Stalin, annunciano l'offensiva finale su Berlino. È il compleanno del Führer e Göring lo raggiunge per l'ultima volta nel bunker sotto la cancelleria del Reich, ormai distrutta. Poi parte di nuovo per il suo quartier generale nelle Alpi bavaresi, da dove, tre giorni più tardi, invia un telegramma a Hitler nel quale si autoproclama suo successore. I nostri generali sono la feccia del popolo tedesco! Sono uomini senza onore! Pagheranno il tradimento con il loro stesso sangue! Pagheranno annegando nel loro stesso sangue! Le SS lo tengono sotto sorveglianza in uno dei suoi castelli. Dal suo carcere Göring tenta di entrare in contatto con il generale Eisenhower. Scrive lunghe lettere nelle quali con stile goffo e petulante propone un armistizio e manifesta la speranza di arrivare a trattative da maresciallo a maresciallo, ma le sue lettere rimarranno senza risposta. Nel frattempo arriva la notizia del suicidio di Hitler. Le SS che lo sorvegliano sono allo sbando. Gli alleati ordinano un incontro con il generale americano Steck, che provvede al suo arresto. È l'8 maggio del 1945. Come per gli altri gerarchi nazisti, anche per lui, soprattutto per lui, si aprono le porte del processo di Norimberga, il tribunale militare internazionale in cui Göring fu imputato di tutti e quattro i capi di imputazione. Crimini contro la pace, aver pianificato, iniziato e intrapreso delle guerre d'aggressione, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Dimagrito e schiavo della morfina, Göring recita la parte della vittima innocente per tutta la durata del processo. Ce lo ricorda William Jackson, uno dei pubblici ministeri del processo. Maestro della menzogna, pieno di risorse, molto vanitoso, estremamente vanitoso, orgoglioso, molto sicuro di sé. Il processo garantisce agli imputati il diritto di parlare e difendersi. Göring ha un'altra opportunità di far sfoggio della sua smisurata arroganza. Con grande risentimento del pubblico ministero, la corte gli concede la parola per 58 ore. Il maresciallo del Reich all'inizio cercava ancora di agire come il numero uno, anche nei confronti degli altri imputati. Poi proseguì semplicemente negando qualsiasi responsabilità personale nei terribili crimini compiuti nel periodo in cui si considerava l'uomo più importante, dopo Hitler. Prima di rispondere alla domanda della Corte, che chiede se mi dichiaro colpevole o non colpevole... Nessun rimorso, nessun rimpianto, niente lucidità. Perfino ora insiste nel tergiversare. Il martelletto del giudice gli impone precisione. Colpevole o non colpevole? Rispetto alle accuse che mi vengono mosse, mi dichiaro non colpevole. Göring è sempre stato un uomo particolarmente attento alla sua immagine. Aveva svolto un ruolo di volto pubblico del regime nazista. Si era dimostrato un attore consumato. Cercherà di svolgere questo suo ruolo anche nel momento finale, al processo. Quando viene chiamato a rispondere dei crimini suoi e del regime, in quel momento parla a lungo, più di tutti gli altri gerarchi, e cerca addirittura di accreditare un suo ruolo positivo, di presentarsi come volto più umano, meno crudele del regime stesso. Ancora Giovanni Sabatucci. Era un tentativo assolutamente disperato, era una difesa del tutto implausibile, non solo perché Göring era veramente, realmente, personalmente corresponsabile di una buona parte dei crimini commessi dal nazismo, ma anche e soprattutto perché Göring era sempre stato e come tale si era presentato il numero due del regime, il vice di Hitler. Era assolutamente inconcepibile e impensabile che potesse sfuggire alla sorte che invece era stata riservata agli altri gerarchi nazisti, spesso di grado decisamente inferiore al suo. La Corte dichiara l'imputato Göring colpevole e lo condanna alla pena capitale per impiccagione. Dopo la sentenza, Göring scrive 3 lettere alla moglie, al cappellano del carcere e alla commissione di controllo alleato. Mi lascerei fucilare senza tanti clamori. Non è possibile giustiziare il maresciallo del Reich di Germania con il cappio. Scelgo invece la morte del grande Annibale. Come il grande condottiero cartaginese, Göring ingerisce del veleno. Da una fiala, forse procurata da un ufficiale americano, suo compagno di carcere. Tutti devono morire, ma morire da martire rende immortali. Un giorno disporrai le nostre ossa in una tomba di marmo. E invece, anche il corpo di Göring, come quello di tutti i nazisti giustiziati, viene cremato a Monaco di Baviera e le ceneri disperse nelle acque di un affluente minore del fiume Isar. Pietrangelo Buttafuoco, firma prestigiosa del Foglio, autore di un pamphlet Buttanissima Sicilia che ha avuto molto successo quest'estate. L'ultimo tuo libro si chiama I 5 funerali della signora Göring, un romanzo che racconta di questo amore incredibile tra Göring appunto e Karin von Kanzow, una bellissima donna svedese, una storia vera. Da dove nasce la tua voglia di raccontare questa storia? Nasce dal fatto che, lavorando ad altro, lavoravo al mio primo romanzo, Le uova del drago, mi imbatto in una fotografia, una bellissima foto che era la copertina di Life, dove si vede questa bellissima signora bionda sdraiata su un piroscafo, accanto a lei Adolf Hitler, dietro di loro altre persone, ognuno di tutti i personaggi della scena concentrato su uno sguardo che va altrove, ma soprattutto lei, mi incuriosisco e comincio a fare delle ricerche che dopo 10 anni hanno portato al racconto di una storia d'amore incredibile, bellissima e potente. Ecco, ma perché quest'amore speciale? È speciale perché è la storia di una donna con un figlio di 8 anni che ha un suo destino già segnato, tranquillo, che si imbatte in un ragazzo giovane, bello, un eroe della Prima Guerra Mondiale, niente meno che l'erede del Barone Rosso, e che decide di vivere con lui e di lasciare tutto, consapevole di andarsene con un ragazzo che non è in grado di darle un futuro e soprattutto lei, già malata, affetta da tubercolosi, incapace di trovare perfino sostentamento e cure. Ecco, ma è davvero scandaloso questo amore? All'epoca lo era o la guerra poi in fondo copriva tutto? No, fu un grande scandalo. Fu una vicenda... Per quello che hai già detto, e lui in qualche modo era scandaloso anche per parte sua, da parte di lui? Anche, certo, certo. Perché? Certo, perché si trattava di una madre che viene strappata al figlio e al marito, si trattava poi di un contesto dove il dopoguerra, che è peggio della guerra, aveva imposto anche uno stile di vita fatta di mutua solidarietà, di assistenza, e fa scandalo proprio perché c'era la necessità di far sì che ogni cosa ritornasse al proprio posto, quindi la madre accanto al proprio figlio e lui, ancora giovane, a seguire un suo destino che fosse quello di chi deve cercarsi una compagna e non certamente un'avventura. Göring, lo abbiamo raccontato, aveva una forte dipendenza dalla morfina, aveva degli attacchi isterici. C'è anche tanta violenza in questo amore? Tra loro no. No. Fuori sì. Quindi... lui è totalmente rapito e preso da lei. Anzi, se c'è una componente maniacale, forte, malata, maligna, in lui molto dipende dal fatto che cercava a tutti i costi di essere all'altezza della pazzia che aveva fatto lei. Lei aveva rinunciato a tutto per lui e lui per tutta la vita cercherà di dare il massimo nell'esasperazione, nella dannazione, per essere all'altezza di quel gesto gratuito e d'amore. Era innamorato più lui o lei? Studiandoli posso dire che era innamorato molto più lui che lei. C'è anche la figura di Hitler in questo romanzo, ovviamente. Ad un certo punto si legge: Hitler stima più lei, Karin, che Göring. È vero? È vero. Hitler ebbe sempre in grande dispregio Hermann Göring, e pur avendolo cercato, voluto, pur avendo indicato in lui il suo successore e contemporaneamente la persona che aveva fermamente messo ai margini e condannato a morte perfino. E perché stima lei invece Hitler? Perché in lei vede una figura che incarna quella che poteva essere nella propria epoca il modello contemporaneo, quindi di una donna emancipata, una donna che potesse raccontare lo spirito del tempo anche in virtù della sua stessa presenza. Tant'è vero, bisogna ricordarlo, che il libro su di lei è il secondo libro più letto dopo il Mein Kampf, un libro che scrisse la sorella di Karin. Lei fu quello che poteva diventare Lady Diana se mai si fosse confermato un mito. La sua tomba, per esempio, era una meta di pellegrinaggio continua in Svezia. È un amore calato nello scenario terribile della Seconda Guerra Mondiale. Quali sono state le tue fonti? Intanto l'epistolario. Lei era grafomane, possiamo dire a tutti gli effetti grafomane, perché scriveva continuamente lettere alla famiglia, lettere ad ogni singolo componente della sua famiglia. Aveva 5 sorelle, poi la madre, poi al padre e poi le lettere al figlio, e quindi è un racconto continuo. Tutto questo epistolario è stato preservato dagli eventi bellici, e poi altre fonti sono un'infinità di libri che sono usciti in Svezia che raccontano questo personaggio. Hai anche visitato i luoghi di cui parli? Sì, certo. Che raccontiamoli, che giro hai fatto, se si può dire in poche parole? Beh, in poche parole, dalla Germania fino alla Svezia, dal Karinol, che è come se fosse una Pompei della Seconda Guerra Mondiale. Era la casa che lui aveva costruito dopo la morte di Karin e che volle battezzare col nome della sua prima moglie, portando però a vivere lì la seconda moglie. Grazie Pietrangelo Buttafuoco. Grazie.